frequenze Sui Generis. Innamorati del femminismo. Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Siamo ritornate su queste frequenze con Frequenze Sui Generis. Oggi in studio ci sono io, che sono Mari, e finalmente è ritornata con noi la nostra carissima Anna. Sì, infatti ci sono anch'io, che sono Anna, ritornata di recente dall'Irlanda con grande entusiasmo, ma veniamo insomma un po' a quello che è il tema di questa puntata. Allora, in realtà stiamo un pochino bucando forse quello che è il tema di questa settimana, però a noi non importa, puoi essere così giornalisticamente sul pezzo, però un pochino ne dobbiamo parlare, insomma, poi ne riparleremo di più nella prossima puntata, in cui parleremo anche di come è andato, insomma. Ma stai lasciando un sacco di suspense, perché manca ancora il soggetto di tutto questo tuo parlare. Sì, lo so, ma io spero che se ne sia parlato di così tanto che già tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori lo hanno capito. Comunque stiamo parlando del Congresso Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Verona questo weekend, proprio mentre io mi laureo, tra l'altro. Evviva per me, ma non per il Congresso Mondiale delle Famiglie, ed evviva invece per Verona Città Transfemminista, che è stata organizzata da non una di meno, a cui hanno aderito, comunque insomma stanno aderendo un sacco di realtà. Si è visto che fondamentalmente, lo dicevamo anche prima, discutendone prima di iniziare questa puntata con te, Mari, che alla fine quello che era il tentativo di far passare un messaggio normalizzante, diciamo, di quello che succederà a Verona in questi giorni, ovvero appunto il Congresso Mondiale delle Famiglie, una riunione di tutti quelli che pensano che fondamentalmente le donne dovrebbero stare in casa e dovrebbero anche starci a fare figli e farli a prescindere, non perché lo vogliono, non perché possano decidere se averli o meno, ma perché riprodurre la razza bianca è importante. E ovviamente c'era stato il tentativo di normalizzare questa cosa, che è fallito. Sì, Anna, perché comunque in altre trasmissioni radiofoniche che insomma ho sentito, tutto questo veniva smentito dicendo che era soltanto una fake news, perché in realtà loro sono per le pari opportunità che dovrebbero far decidere a una donna se vuole stare a casa accudire i figli, e se invece vuole andare a lavorare, di andare a lavorare, senza rendersi conto che nelle pari opportunità questo discorso lo dovresti fare per uomini e donne. E quindi vi abbiamo sgamati. Esatto. E quindi, per sgamarvi ancora di più, che cosa si può fare, cara Anna, questo weekend? Allora, questo weekend ci saranno un sacco di cose. Appunto, Verona Città Transfemminista, diciamo molto brevemente, poi potete trovare comunque l'evento sulla pagina Facebook di Non Una Di Meno, di Non Una Di Meno Verona. L'evento si chiama 29, 30, 31 marzo, Verona Città Transfemminista. Fondamentalmente ci sarà già qualche evento di avvicinamento giovedì 28, poi il 29 ci saranno diversi eventi, conferenze, incontri, laboratori, spettacoli, performance diffusi nella città. Il 30 marzo ci sarà il corteo, che per cui sono stati organizzati tra l'altro anche dei pullman da Bologna, per cui tra pochissimo darò le indicazioni. E poi il 31 marzo ci sarà l'Assemblea Femminista Internazionale, a cui parteciperanno tra le altre anche Marta Dillon, di Ni Una Menos Argentina, attiviste dall'Irlanda, dalla Polonia, dalla Francia e dai Paesi Bassi. Insomma, anche il femminismo è internazionale, e quindi appunto si terrà questa assemblea. Ma mi piace molto anche, Anna, perché noi avevamo fatto una puntata parlando dello sciopero dell'8 marzo rispetto al tema delle critiche, al fatto che insomma ci fossero persone che dicevano che l'8 marzo, questo sciopero, che senso poteva avere. Beh, io devo dire che se esiste una realtà come Non Una Di Meno, io dormo un po' più tranquilla in questo periodo un po' oscurantista, perché mi piace sapere che ogni volta che c'è un convegno, un evento, un atteggiamento di questo tipo, io so che ci sono delle sorelle, anche degli uomini che appoggiano questo movimento, che si stanno muovendo per contrastare questo oscurantismo. Quindi mi sento serena. Sì, anch'io, ed è uno dei pochi casi veramente nell'ultimo anno in cui tra l'altro mi sento veramente molto confortata anche dalla reazione mediatica e politica che c'è stata, diciamo, a questo evento che si terrà a Verona. Per dire, l'evento Verona Città Transfemminista in questo momento c'è più di 11.000 persone che parteciperanno interessate. L'ultima volta che ho guardato il Congresso Mondiale delle Famiglie ne aveva 1.000 o 2.000, forse è perché i social sono ritenuti un inquinante dell'atmosfera familiare, non lo Chi so, lo magari sa. Non ce li hanno. Comunque, in ogni caso, è importante comunque esserci e contrastare questa cosa. Non solo, tra l'altro si è già detto anche su queste frequenze proprio in occasione dell'8 marzo, ma appunto ne riparleremo, però è importante esserci non soltanto perché appunto è veramente una riunione di persone sessiste oscurantiste da tutto il mondo, ma anche perché lo è col patrocinio dei ministeri. Fondamentalmente parteciperanno ben 3 ministri, perché parteciperà Salvini, parteciperà Pillon e parteciperà... No, Pillon non è ministro. Perché parteciperà Salvini, parteciperà Fontana e parteciperà anche... Lui lo è ministro, ministro della famiglia, perché mi hai guardato così? No, non mi veniva in mente il terzo. Bussetti. Ah, sì. Perché parteciperà il ministro degli interni Salvini, parteciperà il ministro alla famiglia Fontana e parteciperà anche il ministro all'istruzione Bussetti, parteciperanno poi molti altri soggetti della politica italiana. Insomma, è veramente importante dare una risposta che per ora sembra esserci. E per chi da Bologna volesse partecipare, appunto, come dicevo prima, si stanno organizzando i pullman per il corteo del 30 marzo, l'andata sarà alle 10:30 del mattino, quindi anche abbastanza bene per un pullman per andare a un corteo. Sì, decisamente bene, insomma non avete neanche la scusa che vi dovete alzare presto come quando andiamo a Roma per il 25 novembre. Sì, esatto, in questo caso si può anche dormire, quindi una volta svegliatesi con calma, caffè, sigaretta per chi vuole, e poi alle 10:30 all'autostazione di Bologna. Il ritorno è previsto intorno alle 7, alle 8, e il prezzo è di 15 euro prezzo intero, ovvero quello che copre effettivamente le spese di avere l'autobus, 10 euro prezzo ridotto, quindi se non ve lo potete permettere, diciamo l'opzione è comunque vogliamo che ci siate, e quindi si può anche chiedere di pagare meno, si può anche chiedere di pagare di più, che c'è questa modalità, esatto, molto bella del viaggio sospeso, quindi chi se lo può permettere può offrire insomma una cifra più alta per permettere a chi ha delle difficoltà economiche di partecipare comunque. Esatto, cioè fondamentalmente il principio è il biglietto costerebbe 15 euro per coprire le spese, se ne possono dare di più si può chiedere di darne di meno, si può chiedere di cercare una soluzione, un biglietto sospeso se proprio non lo si può pagare. Insomma ci sono tutte le ragioni per essere. Ci sono tutte le ragioni per esserci. Noi adesso stiamo perdendo un po' di tempo, insomma dobbiamo andare veloci, perché poi in realtà questo appunto, come dicevo all'inizio, non sarà il tema principale di questa puntata, anche se in modo lato, diciamo, in qualche modo ci colleghiamo. Ma certo che ci colleghiamo, e neanche in modo così tanto lato, perché fra pochissimo vi faremo sentire un'intervista in cui ci verrà raccontata un'associazione di cui non so se avete sentito parlare, che è l'associazione Uomini Casalinghi, e quindi in realtà secondo me ci sta proprio bene in questa puntata in cui stiamo parlando del convegno di Verona e della manifestazione che contrasta questo convegno, perché è un convegno che ci vuole ingabbiare, mentre invece l'associazione Uomini Casalinghi ci racconta che non esistono cose per uomini e cose per donne e che tutti possono fare tutto. Al telefono con noi c'è Fiorenzo Bresciani, che è il fondatore dell'associazione Uomini Casalinghi. Benvenuto Fiorenzo. Benvenuto a voi, grazie. Allora, caro Fiorenzo, devo dire che io quando sono venuta a conoscenza di questa notizia, cioè dell'esistenza di un'associazione di uomini casalinghi, ho condiviso l'informazione con molte mie amiche, e devo dire che un sacco di donne sono state intanto contente, cioè felici solo per l'idea che voi esisteste, e poi proprio contente insomma di sapere che ci sono degli uomini, delle persone che non solo sono casalinghi, che rivendicano questa parola, ma anche che hanno voluto fondare un'associazione sulla base di questo. Quindi insomma mi faceva piacere riportare questa cosa, e quindi chiaramente insomma a nome un po' di tutte le persone che avevano questa curiosità, mi piacerebbe chiederti com'è nata questa associazione, se ci puoi raccontare la sua storia. Allora, come prima cosa, meno male che si sta facendo dei passi avanti, perché l'associazione quando è nata nel 2003 non è che le donne ci vedessero proprio veramente di buon occhio, tutte dicevano ma cosa fate ora voi uomini, vi mettete il grembiule, tutti applaudiscono, vi ringraziano, siete bravi, noi 1000 anni che facciamo questo lavoro e nessuno ci dice grazie. E piano piano, meno male che si è evoluta la situazione, piano piano il mondo femminile ha capito che in realtà noi non vogliamo scardinare nessuno dal mondo dell'economia domestica, noi vogliamo solo dare un aiuto o essere presenti nella propria casa per sempre, per la vita, per la propria famiglia, per tutti quanti. Ecco, questa è una cosa importante che lei mi diceva che alcune amiche che lei ha parlato mi hanno detto sono contente di questa cosa. Questo mi fa piacere perché fino a pochi anni fa il mondo femminile non era molto contento. Sì, devo dire che in effetti l'idea appunto è anche che, diciamo, forse un po' la critica che può venire fatta in questi casi è esatto, cioè se c'è l'associazione delle donne casalinghe e nessuno ne parla, quando una cosa viene fatta dagli uomini ecco che tutti ne parlano, perché devo dire che anche qualcuno mi ha riferito, no, questa osservazione, però secondo me la cosa è un pochino diversa, nel senso che l'aspetto interessante vostro è che vi state occupando di un tema che è quello appunto dell'economia domestica, della gestione della casa, che è stato per millenni appannaggio delle donne, ma cioè è anche difficile dire che sia stato un regno, perché a volte lo si vendeva come un regno, quello della casa, quando spesso era più che altro anche per tante una prigione, o comunque un qualcosa, quello dell'economia domestica, dell'occuparsi delle faccende di casa, che non è che valorizzasse tantissimo, e quindi era anche un po' difficile che se qualche uomo magari questa cosa la faceva, quasi la faceva di nascosto. Invece secondo me la cosa succede tuttora questa cosa qui. C'ho degli amici che fanno il casalingo a tempo pieno, però al momento che gli faccio la domanda tu sei un casalingo, e si trovano in difficoltà nel rispondermi, perché il primo impatto è di dirmi no, io non sono un casalingo, io aiuto in casa, ma non sono proprio un vero casalingo. No, tu sei un casalingo perché ti occupi, fai la spesa, fai da mangiare, esci la casa, perciò sei un casalingo. Il problema a monte è che se il casalingo o la casalinga avesse uno stipendio di 2000 euro al mese, lo farebbero in tantissime persone, penso, semplicemente che è un lavoro invisibile dove nessuno lo riconosce perché non porta reddito. Ecco, intervengo io perché vorrei fare una domanda su questo tema, nel senso che effettivamente quello, diciamo, del reddito legato al lavoro di cura è un tema che è stato del femminismo almeno fin dagli anni 70, è stato ripreso anche dalle più recenti ondate nell'ambito di Non Una di Meno, di cui abbiamo parlato in pochi episodi fa e in poche puntate fa. Si parlava del reddito di autodeterminazione, quindi un reddito appunto per il lavoro in casa, e quindi le chiederei cosa ne pensa di questa cosa. Sinceramente devo dire ne penso molto bene di questa cosa, si sta facendo dei passi avanti. Io vorrei ritornare un pochino più avanti, però vorrei parlare, che sono ancora parlato, come è nata questa associazione. La cosa principale è questa qui. Nel 2003, quando io ho lasciato la mia attività commerciale e mi sono messo a fare il lavoro in casa, e ho cominciato a fare un percorso che nessuno lo voleva riconoscere, eravamo in 5 persone. Poi, dando la vita a un nuovo sito internet, uomini-casalinghi.it, e lì è successo un po', si è scoperchiato il tetto, diciamo, e tutto il sole è entrato dentro la casa, perché diciamo che internet ci ha dato la possibilità di essere visibili in tutto il mondo, e perciò abbiamo avuto questa visibilità incredibile che tuttora continuiamo ad andare avanti e portare avanti. Io non mi occupo molto del lato femminismo perché è un po' particolare, si ripete sempre le stesse cose, perché il femminismo è giusto che ci sia stato, è giusto che sia venuto perché ha portato all'emancipazione della donna nella società, però è anche vero che ha prodotto anche i suoi danni. Diciamo che è un tema molto articolato di cui bisognerebbe avere molto tempo per parlare, e appunto ognuno poi insomma ha le sue opinioni e bisognerebbe avere spazio per confrontarsi, ma quello che interessa a noi è tu ci dicevi, Fiorenzo, che è stato difficile all'inizio, nel senso che molti uomini appunto non erano casalinghi, ma non volevano dirlo. Riconoscerlo, sì, esatto, anche riconoscersi, forse nominarsi in questi termini. E secondo te perché? Cioè, nel senso, come dicevi, è chiaro che se fosse il discorso, perché non è retribuito, è un lavoro invisibile, è un lavoro che non porta visibilità, e perciò chi è che fa un lavoro che non è visibile e non porta retribuzione? E nessuno lo farebbe mai. Si gira intorno a lì, è sempre quella cosa. Come dicevo prima, se diciamo così, il casalingo avesse lo stipendio di 2000 euro al mese, Io sono convinto che tantissime persone sarebbero orgogliose di fare il casalingo. Volevo farti un'altra domanda anch'io. Diciamo, lo so, è vero che appunto lo spazio per un dibattito grande sul femminismo non c'è, però è interessante questa cosa, appunto, perché noi comunque siamo una trasmissione che si occupa di femminismi, ma soprattutto di questioni di genere, ovvero di come vengono attribuiti, diciamo, i ruoli sulla base del genere delle persone, no? E quindi, insomma, uno dei temi, diciamo, delle problematiche legate al lavoro in casa è proprio quello del fatto che, un po' perché non è retribuito, appunto, tu dicevi, chi lo vorrebbe fare? Nessuno, siamo d'accordo, poi non che non lo voglia fare nessuno, però insomma, così come lavoro, e poi dall'altra parte viene anche visto come qualcosa di femminile, femminilizzato, nel senso che poi effettivamente le discriminazioni di genere sono un'arma a doppio taglio. Io sono passato anche da omosessuale, tutti mi hanno detto, ma tu forse sei passato da omosessuale, perché giustamente è un lavoro che era sempre stato, diciamo così, dato per scontato che lo facesse la donna, in queste maniere qui. Quando invece poi l'uomo ha preso in mano la redini, come ho fatto io capire fra tanta gente, che è un lavoro che non ha sesso, un lavoro che appartiene sia al maschio che alla femmina. Al momento che le due persone si uniscono, fanno famiglia, non c'è più il discorso chi pulisce il pavimento, o chi fa la lavatrice, o chi stende i panni. Si fa e basta, è chiuso, non c'è da star tanto a discutere. Però non è anche facile far capire a un mondo maschile che non ha mai fatto questa cosa, fargli capire che è importante farlo, non è facile. Fiorenzo, posso farti una domanda personale? Posso chiederti quanti anni hai? Certo. Io ho 66 anni, ne ho 80 un po'. Beh, insomma, però te lo chiedo perché in realtà noi adesso vediamo che un cambiamento anche dal punto di vista della partecipazione o della condivisione del lavoro domestico nelle nuove generazioni c'è. Devo dire che con persone che appartengono alla tua generazione ce lo immaginiamo che sia molto difficile, perché comunque anche per esperienze comuni che vediamo, anche nelle famiglie in cui siamo cresciute, è proprio vero, come dici tu, cioè il tema è: quello è un lavoro da donna e chi fa qualcosa da donna non è un vero uomo, mentre invece esatto. Questo invece è un tema che si sta ribaltando. Immagino, oltre a questo, un tema probabilmente ancora più ostico che io ho vissuto anche all'interno della mia famiglia e che ho condiviso anche con diverse amiche, è ad esempio anche quello del lavoro di cura nei confronti degli anziani. Cioè, diciamo che se adesso magari il lavoro domestico un po' nelle nuove generazioni, o comunque anche in tutti i tipi di generazioni, anche di persone che fanno poi sono afferenti alla vostra associazione, perché voi avete tantissimi iscritti, no? Noi siamo quasi a 7.000 iscritti. Voi siete quasi a 7.000 iscritti, e quindi questo, insomma, esatto, vuol dire che c'è stato un bel cambiamento. Sì, negli ultimi 3-4 anni c'è stato un fortissimo cambiamento, devo dire. Grazie anche a mass media, grazie anche a come voi che fate questa intervista, grazie a tantissime persone che si sono avvicinate cercando di capire. Noi fino a poco tempo fa facevamo dei corsi, dei master on management, dove si dava, diciamo, un piccolo, come posso dire, dei consigli. Dei consigli per poter gestire l'economia domestica, e devo dire che c'era un gran successo. Si arrivava a 30-40 coppie, perché altre erano coppie che magari si mettevano insieme, stavano convivere insieme, però c'è sempre il solito problema che magari abbiamo due lauree, abbiamo tantissime lauree, ma non sappiamo mettere l'acqua al fuoco, perché nessuno ce lo insegna più. Non è più come una volta, che l'economia domestica veniva tramandata da padre a figlio o da madre a figlia, oppure anche dentro la scuola c'era, si poteva studiare. Adesso nessuno se ne vuole occupare, perciò si arriva ad avere l'età di 30 anni, però non sappiamo cuocere un uovo. Questa è la cosa principale. Allora noi, come associazione, abbiamo voluto fare dei master dove si dava proprio le basi per poter gestire un'economia domestica, per potersi mettere insieme e darci una vita, un percorso nuovo. Certo, anche perché, voglio dire, ciò che riguarda l'economia domestica riguarda la vita di tutte e di tutti, nel senso che pensiamo che per chi ha dei figli che magari vanno a vivere fuori di casa, insomma, pensiamo che sia anche arrivata un'epoca in cui sarebbe bello che uomini e donne sapessero cuocersi un uovo e anche qualcosa più di un uovo, sapessero anche stirarsi una camicia, perché insomma, come diciamo spesso, il pollice opponibile l'abbiamo tutte quante, tutti quanti, sì. E quindi un ferro da stiro lo possiamo prendere in mano tutti. Ma questa associazione, quindi voi ci stavi raccontando, Fiorenzo, avete fatto dei master, cioè che cosa si può trovare ad esempio sul sito della vostra associazione, quali consigli, quali temi trattate? Allora, noi abbiamo tantissimi consigli in casa, dove non so come si pulisce, come si può fare un detersivo ecologico per poter gestire la casa senza inquinare, oppure come si pulisce un divano, come si può rifare il letto, come si può tinteggiare la casa, sono tantissime le cose da poter attingere al nostro sito. Poi abbiamo il libro che abbiamo fatto noi, l'ultimo, esatto, libro, Pulire al Naturale, che è un libro alla seconda ristampa, ma sta andando tantissimo, è un libro a 8 euro, si può acquistare nelle librerie, e lì ci sono tantissimi consigli, dove è un manuale di lavoro praticamente, come gestire la casa, è molto interessante. Poi abbiamo le news, dove noi mettiamo nel nostro sito le news di cose importanti che succedono. Poi abbiamo il pollice verde sempre sul nostro sito per chi si vuole occupare anche di giardinaggio, e lì diamo dei consigli come potare le piante, oppure come concimare alcune piante. Insomma, sono piccoli accorgimenti che però possono di grande aiuto e utilità. Certo, perché nella vita di tutti i giorni tutti questi piccoli accorgimenti vanno poi a creare la nostra quotidianità, e infatti tu, esatto, appunto parlavi di questo libro che lo possiamo dire, insomma, è edito da Terra Nuova Edizioni, sì, in cui voi non, sì, solo date dei consigli su come appunto tenere dietro la casa, pulire la casa, ma date dei consigli su come farlo in maniera naturale, con degli ingredienti ecologici, insomma, a basso impatto ambientale. Diciamo che soprattutto in questi tempi in cui si sta parlando tanto di che cosa fare per la terra, ci sembra anche un'attenzione in più che merita sicuramente di essere, esatto, di essere raccontata. Noi, scusimi, prego, noi non diamo molta attenzione alle ricette, come si può vedere al nostro sito andandoci sopra, c'è pochissime ricette, anche perché vogliamo volutamente lasciare un po' indietro questa rubrica, perché c'è talmente così da mangiare in televisione che quasi sarebbe banale, stupido riproporre le stesse ricette. Allora, quella l'abbiamo un po', poi diciamo che se ognuno di noi, anche il casalinghi che rimangono a casa, ha le sue ricette particolari, che ognuno pensa a modo suo, chi vuol mettere più pomodoro, meno pomodoro, allora è un argomento che abbiamo voluto un po' tralasciare un pochino. Guarda, ti farei un'altra domanda io, perché mentre ti sentivo parlare anche con appunto passione, interesse di tutti questi temi, giustamente, perché se uno ci dedica il proprio tempo, è un sito anche, insomma, siccome noi spesso riportiamo queste istanze appunto come, diciamo, programma femminista, sul fatto che alle donne siano state private per secoli praticamente della possibilità di accedere a un sacco di professioni, di studiare, eccetera, però appunto anche gli uomini sono stati privati di qualcosa, quindi ti chiederei anche come ti senti tu rispetto al fatto che gli uomini sono stati privati della possibilità di appunto di fare tutte queste cose, quindi di prendersi cura della propria casa, della propria famiglia, almeno fino alla tua generazione, diciamo, perché già andando poco più indietro è proprio qualcosa di quasi impossibile da trovare. Come l'abbiamo, noi l'abbiamo recepito in una maniera un po' particolare, che ci siamo chiusi, praticamente ci siamo un po' vergognati della situazione. Io sento tantissime persone agli incontri che facciamo, quelli del circa da 50 anni in su, e parlano tutti, che dicono la cosa che dicono, è che gli sarebbe piaciuto, ma il problema veniva che se un ragazzino a quell'età si metteva a fare qualcosa, passava da omosessuale, che aveva delle tendenze sul femminile, e perciò si vergognavano, lo facevano ma in silenzio, di nascosto, in questa maniera. È stata una libertà, come sia nel mondo maschile che nel mondo femminile, con gli anni 2000 ci siamo un po' emancipati, diciamo, sia tutti e due i generi. L'uomo ha fatto dei grossi passi in avanti, perché insomma quelli della mia età, che quelle che l'uomo non deve chiedere mai, si ritrova poi a lucidare le scarpe della moglie, oppure a fare la lavatrice degli slip della sua signora, o a valle a stendere, era un po' particolare, mentre invece adesso lo fa con grande piacere, perché ha capito che ormai l'uomo che non deve chiedere mai è finita quell'epoca lì, ormai siamo tra virgolette emancipati, e perciò si sta portando avanti una cosa che che secondo me sempre più, spera meglio, ritorno un po' al discorso di prima, che la cosa principale sono stati i mass media, dove hanno fatto capire al mondo maschile e al mondo femminile anche che il lavorare e collaborare nelle proprie mura domestiche non era da vergognarsi assolutamente. Beh, insomma, come hai detto tu, Fiorenzo, l'uomo che non deve chiedere mai sta finendo, insomma non è del tutto finito, però sta finendo, e sta finendo per fortuna, diciamo noi, perché quello che noi crediamo è che chiedere in realtà sia anche un sintomo di grande forza, cioè l'idea che si basta a noi stessi e non c'è mai bisogno di chiedere nulla, di imparare nulla, insomma di stare dentro a dei rigidi schemi che ci hanno insegnato, in realtà è soltanto una rigidità che ci priva di tanta parte bella della nostra vita. E comunque devo dire che pur nella fatica anche associazioni come la tua questa cosa la dimostrano, perché tu ci racconti di una storia nata anche con del dileggio di persone che dicevano insomma fate così perché non siete dei veri uomini, però adesso ci parli di un'associazione che ha migliaia di persone iscritte, quindi sì, l'ultima cosa poi... che sì. L'ultima cosa che ti chiediamo è proprio di se ci vuoi ripetere i tuoi contatti, perché noi speriamo che con questa intervista ci sia qualche altro migliaia di ascoltatori che ha voglia di iscriversi. Allora, se ci dai i vostri contatti, se qualcuno volesse conoscervi di più, contattarvi. Allora, si fa sul nostro sito internet, trova lì per iscriversi, per iscrivere anche all'associazione, oppure fiorenzo@uomini-casalinghi.it. oppure associazione@uomini-casalinghi.it. Io ripeto il sito www.uomini-casalinghi.it. È un sito dove chiunque si avvicina può trovare tante informazioni per poter gestire l'economia domestica. Questa è la cosa principale e la cosa più importante. Perfetto Fiorenzo, noi ti ringraziamo molto per questa intervista, ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie, grazie tantissimo e buon lavoro anche a voi. Grazie mille. E insomma abbiamo salutato Fiorenzo, non ci resta che salutare anche voi perché siamo arrivate veramente quasi alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Io vi ricordo che ci ritroveremo sempre su queste frequenze martedì prossimo dalle 13.30 alle 14. Nel frattempo potete seguirci sulla nostra pagina Facebook che appunto si chiama Frequenze Sui Generis e potete anche scriverci alla nostra mail frequenzesuigeneris@gmail.com. potete darci indicazioni, suggerimenti, commenti, tutto quello che volete. E insomma, per chi c'è, ci vediamo a Verona questo weekend e altrimenti ci ritroviamo sempre qui martedì prossimo. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko.